Diorama, diorama, diorama, diorama, diorama, diorama, diorama, la rubrica in cui incontriamo gli artisti e le artiste coinvolte in Linea d'aria e chiacchieriamo con loro riguardo alle loro opere e al loro abitare i luoghi del festival. Bentornate e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici alla rubrica Diorama su Radio Live per Festival in Linea d'Aria. Io e Giovanni, sempiterna controparte, ci accompagni in tutte le nostre avventure. Siamo qui a Pietra Pertosa, dove abbiamo appena incontrato, qui con noi, Paola Bianchi e Stefano Murgia, che aveva qualche riserva nel liberare il suo cognome, ma alla fine ce l'ha Abbiamo concesso, fatto, ci quindi è dispiace. andata così. E Paola Bianchi, artista, danzatrice e coreografa, insomma, non so cos'altro si possa. Ora anche a breve radiofonista, diciamo, di questo parleremo in seguito. Ti va di intanto benvenuta ai nostri microfoni Grazie. e ti va di raccontarci un po', insomma, il tuo lavoro, di cosa tratta, possiamo dire, ecco, Mi assimili e di cosa tratterà e cosa dovranno aspettarsi gli spettatori e le spettatrici che avranno la fortuna di viverlo in presenza. Poi ti faremo altre domande riguardo invece la traduzione radiofonica. Buonasera a tutti, ciao a tutti, tutti e Benvenuti. tutte. Ma dunque, assimilia Deposito Dettato 85010, perché il titolo lungo, cioè giusto è questo, nel senso che è una versione apposita di Assimilia proprio creata qui, quindi 85010 è il CAP di Pietra Pertosa. Un titolo appena più corto di un film della Wertmüller, insomma, Esatto, di una sigla. ma in genere sono cortissimi i miei titoli, però insomma bisognava, come dire, aiutare un po', insomma, dare anche qualche dettaglio più chiaro. Dunque, questo lavoro nasce perché poi Assimilia debutterà a metà dicembre, no, sì, il 18 dicembre al Festival Teatri di Vetro di Roma. Quindi il teatro, Conosciamo. insomma, con un'altra cosa, per cui non può essere Assimilia, perché lo faremo nella sala consiliare, non ci saranno luci teatrali, lo spazio è ridottissimo rispetto allo spazio che dovrei utilizzare, insomma, anche il suono è diverso, quindi è un'altra cosa. Il lavoro è parte di un progetto che si chiama HELP, senza H davanti. Ethos, Logos e Pathos, che è un acronimo. Con vaghi richiami echi dei CCCP, insomma, mi sembra che alcuni ricorderanno. Questo progetto è incentrato sulla relazione tra parola e corpo e movimento, tra parola descrittiva e danza. Ed è un progetto che, come dire, indaga proprio la relazione anche tra il corpo, tra i corpi, un'indagine approfondita sui corpi e sulla relazione tra le immagini e il corpo. Quindi è molto complesso come progetto. Ed è un progetto che è nato 3 anni fa e che sta, producendo, sviluppando, creando tantissimi dispositivi scenici, sia di solo audio, di performance, spettacoli teatrali, installazioni, insomma è veramente un progetto che crea ogni volta nuove situazioni. Assimilia in particolare, è quasi come se si rifacesse a tutto il percorso che è stato fatto fino adesso, perché il progetto HELP, allora, a partire da raccolte di immagini che però sono condivise da gruppi di persone, io appunto ho creato degli archivi di immagini, quindi un archivio di immagini occidentali, l'ho chiamato occidentale, che è italiano, quindi insomma di persone italiane, un archivio di immagini che ho chiamato Altre Memorie e che sono provengono da persone che vivono in Italia ma arrivano da altri paesi, quindi con background migratorio, possono essere qui da 5 giorni come da vent'anni, però che abbiano ancora, insomma, una loro memoria storica in qualche modo del luogo. E poi un terzo archivio che è Corpi della Protesta, quindi che abbiamo lavorato insieme a Stefano, in particolare questo, proprio su i corpi della protesta degli anni 2000, cioè dal 2000 ad adesso, perché effettivamente i corpi nella protesta sono cambiati negli anni. Il corpo del Novecento nella protesta non è lo stesso corpo del 2000, no, sono cambiate le leggi, sono cambiate i modi di stare in piazza, le possibilità di fare. L'unica protesta che invece è un filo continuo dal Novecento fino adesso è quella, la rivolta, chiamiamola protesta, rivolta, non so, palestinese, e quella, ecco, forse hanno sempre meno pietre, non lo so, un po' una situazione. Ma se dico, più che essere cambiata diciamo, la morfologia dei corpi che l'attraversano, fosse lo stesso corpo che ha preso sempre più mazzate nel esatto, corso esatto, di un secolo. Esatto, insomma, esatto. E quindi a partire da queste, spiego velocemente, insomma, le immagini che io raccolgo, poi le incarno, tutto il tempo, poi se mai tagliato. No, a te no, te non ti tagliamo, gli altri si intendono. Sì. Le immagini che raccolgo, a partire, che arrivano dalle persone, io le incarno, diventano una mia performance, un mio solo di danza. Dopodiché io faccio una ripresa video fissa, cioè a camera fissa, e fermo l'immagine in corrispondenza di quell'immagine che io ho incarnato, che ovviamente nel mio corpo è diventata altro, non è la copia becera, diciamo. C'è una traduzione, diciamo. C'è una traduzione. È come se fosse uno stimolo per il movimento. Esatto. Sì, poi appunto dipende anche dalle immagini, perché le immagini occidentali, che sono immagini che io conosco, e vi faccio un paio di esempi per dire, mi sono arrivate immagini dell'11 settembre, immagini di Aldo Moro nel bagagliaio, ci sono delle, o Marilyn Monroe, quindi icone o immagini che comunque di situazioni storiche che hanno segnato veramente un cambio nel corso della storia, no? Del nostro mondo di stare modo di stare al mondo, no? E quindi io non ho lavorato solo sulla posizione del corpo, ma su quello che c'è prima, c'era prima, c'è stato dopo, che cosa è successo, quindi è complesso, no? Il modo di incarnarlo, diciamo. Quindi fisso questi il video, faccio un fermo immagine in corrispondenza di quella immagine che è entrata, che lo so io perché penso in quel momento a quell'immagine, e la descrivo verbalmente, quindi tipo, non so, poi sono in piedi, paralleli, braccio destro in alto, cioè proprio la descrizione pura e semplice, senza emozioni, è proprio descrizione della postura. E poi queste descrizioni possono essere trasmesse ad altre persone per creare altri dispositivi. Ma per quanto riguarda Assimilia, io ho preso tutte le descrizioni che ho fatto di questi tre archivi, che sono diventati archivi di posture, non più archivi di immagine, li ho mischiati, li ho divisi per braccio destro, braccio sinistro, testa, busto, gamba destra, gamba sinistra, bacino, insomma le varie cose. Li ho davvero mischiati così, con un metodo aleatorio proprio, no? Tirando a sorte. E quindi a me cosa succede? Questo lavoro è, non so, il braccio destro di un'immagine occidentale, il braccio sinistro di un corpo della protesta, la gamba di un'altra. Quindi sono mischiate e mi arrivano queste indicazioni via auricolari, ed è la mia voce registrata che mi dà gli ordini per eseguire la coreografia. Quindi sono, sì, auto-etero-diretta, diciamo, perché certo, è la mia voce che mi... Un incubo. Esattamente un incubo. È impossibile non pensare, per me che li ho conosciuti abbastanza bene al lavoro dei Fanny Alexander, certo, per esempio, sì, ma sì, per quanto io conosco il loro lavoro, lì di solito c'è una sorta di eterodirezione live, in cui c'è una sorta di dialogo fondamentalmente, in cui qualcuno dà degli ordini a qualcun altro, mentre nel tuo caso fondamentalmente sei tu che dai ordini a te stessa, quindi fondamentalmente schiacci play e vai. Quindi e sicuramente c'è un livello di, credo anche di attenzione, di presenza molto alto da tenere. esatto. Come performer rispetto a una esatto, c'è una concentrazione completamente diversa rispetto a quella della scena normale. Normale non vuol dire niente, ma insomma del mio modo di stare sulla scena, perché potrei veramente farlo solo come un automa, mi dici quello, mi dici, certo. Ma il corpo si svuota proprio di forza, no? Quindi l'unica cosa che io posso fare lì è modificare le forze del corpo, no? E quindi devo avere questa doppia concentrazione, perché sembra, dici, vabbè, l'hai provato, ma non te lo ricordi, non ti puoi ricordare la sequenza, perché quello che succede è che se tu semplicemente piego la gamba destra e la pieghi un po' di più, un po' di meno, quello ti cambia la postura e quindi non è più la stessa cosa, no? Cioè si modifica tutto il percorso e tutta la coreografia, quindi è impensabile averlo come memoria, no? Cioè non è proprio possibile. Ma devo avere questa doppia concentrazione sulle posizioni realmente per seguirle e sulle forze interne. Quindi cercare di utilizzare una cosa che apparentemente può sembrare molto vincolante e quasi portarti a un'esecuzione meccanica delle cose, invece come fondamentalmente come cosa su cui appoggiarsi per non stare nella propria memoria, ma appoggiarsi su quella tua direzione per raggiungere... Sì, con molti limiti per raggiungere un bel niente, cioè nel senso che è un po', se pensi, quello che succede anche a noi, no? Cioè abbiamo una serie di leggi, una serie di cose che dobbiamo seguire, allora tu come stai su quel filo per non diventare un automa che segue, devo fare quello, faccio l'altro, non posso fare questo, cioè trovi delle modalità, no, di stare lì dentro, quindi è un po' questa la questione, almeno per noi, insomma, è un po' questa. Infatti, leggendo un po' la presentazione del vostro progetto, del tuo progetto, cioè, ti ho segnato alcune cose, incessante conflitto tra la voce che prescrive e il soggetto che esegue, quindi, come hai spiegato, sei sotto dettatura della tua voce stessa che ti chiede di creare delle posture e quindi far sì che il corpo, oltre ad essere già diventato deposito di immagini, di memorie di altre persone, ricrei una nuova possibilità forse di stare alla dettatura. Ma quindi quanto è importante per questo progetto la relazione tra la scrittura in quanto scrittura come legge, appunto come decisione da eseguire, e anche la scrittura nel senso come scrittura d'immagine, ovvero penso che per questo lavoro abbiate molto lavorato anche su il deposito di immagini, inteso anche come archivio, come big data, o, diciamo il mondo del cibernetico, come l'informatica abbia anche dato un nuovo aspetto alla temporalità del corpo. Quindi la mia domanda è più relativa a come il corpo di oggi sia molto più soggetto, forse semplicemente sia soggetto a un potere dell'immagine che forse è anche più forte del potere della legge. Wow. Vabbè, ci vediamo fra una settimana in studio e poi ci riparliamo. Dunque l'immagine ovviamente è un martellamento incredibile, ma specialmente in questa parte del mondo, no? Faccio un esempio. Allora, l'archivio Memorie Occidentali, io ho contattato 40 persone italiane, mi sono arrivate quasi 400 immagini, 300 e insomma quasi 400. Ho contattato 40 persone, chiamiamo con background migratorio, e mi sono arrivate 60 immagini. Beh, molti mi hanno detto, ma io non ho mai avuto la tele, da noi non c'era la televisione, in un paesino sperduto in mezzo all'Africa non c'è mai stata la televisione, non c'è mai stato internet, niente, quindi io ho nella mente l'immagine di me insieme agli altri bambini che andavamo a prendere la legna per cucinare. Quindi lui ha cercato sul web un'immagine di un bambino con la legna in testa, no? Che la trasportava. Allora, anche qui l'immagine che funzione ha nel mondo occidentale o in un altro mondo, no? Noi ragioniamo sempre per noi, è chiaro, cioè Hans Belting ci dice che l'immagine entra attraverso gli occhi dentro il corpo e lì si deposita l'immagine e lo modifica, ed è verissimo, io me ne accorgo, no? Su di noi avviene questa cosa qui, però bisognerebbe capire, no? Se è universale questa funzione o qui avviene perché noi abbiamo un martellamento continuo dell'immagine, no? La relazione però del corpo in assimiglia con l'immagine in realtà non c'è, non esiste, tant'è che non vengono fuori immagini ma vengono fuori figure, quasi come le bambole rotte di Bellmer, che hanno cioè un braccio conficcato nell'anca, una gamba che esce dalla spalla, ecco, cioè diventa più quella cosa lì, e quindi sono figure che non sono riconducibili a immagini, anche se tu magari vedi il mio braccio destro teso con il pugno chiuso, ma il corpo è in una posizione che non è in relazione con quella, e quindi è un pezzo di un'immagine. E quindi la combinazione diventa una figura, no? È inorganico. Un collage. È una sorta di collage, sì, inorganico proprio, quindi non c'è organicità. Quindi la difficoltà anche per me è davvero come utilizzare il corpo, perché un impulso di un movimento che ti dice al braccio sinistro, di fianco disteso, poi nella mia testa andrebbe, supponiamo, in alto, e invece poi mi dice piegato sotto di te, quindi mi cambia ogni intenzione. Ecco, non ci sono intenzioni, no? Non c'è l'intenzione del movimento, quindi la devo aggiungere io con una forza del corpo, cioè devo salvare la vita dentro quella roba lì che potrebbe essere una macchina. Certo, come se proprio riscrivessi le tensioni in qualche modo, no? Che ci sono da queste varie immagini che prendi appunto per rendere delle figure. Cioè, da quello che insomma ci stai raccontando, c'è questa dimensione visiva molto forte del tuo lavoro, no? Quasi iconografica per certi aspetti, quasi questa sorta di Frankenstein di posture che creano nuove figure, nuove tensioni. Allora, come dire, sicuramente siamo molto incuriositi, no? Dall'immaginare come può essere la traduzione radiofonica, quindi per immagini sonore di un lavoro di questo tipo. Anche noi. Immaginavo, infatti. No, perché io ho già lavorato file audio, cioè ho già tradotto una parte di uno spettacolo in file audio, no? Che è anche andato in radio, diciamo. Però qui c'è, secondo me, un'altra sfida, no? Perché io posso descrivere, cioè quello descriveva il movimento, quindi tu lo ascolti, chiudi gli occhi e vedi, alzo il braccio destro, appoggio, e cioè, quindi ti porto a muovere il corpo nella tua testa, in una sorta di immaginazione muscolare, no? Con i suoni anche del corpo, quindi era tutto. Qui però vogliamo andare, cioè non è quello che ci interessa, no? Vogliamo provare a sperimentare altro, in più con la relazione, cioè c'è una relazione con il luogo che non possiamo escludere, certo. No? Perché un conto è farlo a casa tua dentro quella roba lì, e allora ti impazzisci dentro una traduzione dello spettacolo, però qui c'è un elemento in più, che è il luogo e le persone, no? E quindi abbiamo iniziato, insomma, a lavorare anche in un'ennesima traduzione delle parole nel dialetto, per esempio. Ecco, Stefano vuole dire. Non so, non anticiperei molto, perché in realtà un po' credo che si tratterà di tramutare delle immagini in suoni, o meglio, trattare i suoni cercando che rendano l'idea di ciò che provoca l'immagine della danzatrice in quel momento, quindi sarà un'ulteriore traduzione di cui non svelerei. No, certo. Che non è niente di che, però insomma. Però sì, abbiamo iniziato a lavorare, oggi abbiamo fatto delle registrazioni con alcuni abitanti del paese di Pietrapertosa e ci siamo misurati già con una traduzione, quindi perché forse non abbiamo detto che esiste appunto un testo di Paola in cui vengono descritte le posture che sì, anche quello che io nella in certi testa. Momenti si sente anche durante lo spettacolo, e nel tentativo di farlo tradurre simultaneamente a queste persone che parlano quotidianamente il dialetto, quindi non sono dovuti andare a rispolverare qualcosa che usano quotidianamente, ci siamo accorti come alcune cose fossero intraducibili, alcune parole come per esempio bacino ha mandato assolutamente nel panico tutti gli abitanti di Pietrapertosa, e le falangi, noi non ce l'abbiamo questo termine in dialetto, no? Quindi è già stato molto interessante questo, sì, una progressione di traduzioni che avverrà anche tra appunto con il media radiofonico. E senza andare appunto troppo nello specifico del lavoro, cioè per non rivelare anche troppo eccetera, piuttosto se vi va di raccontarci qualcosa di come è andato proprio il contatto invece con questo luogo, magari anche con le persone, non so, siete qui ormai da 2 o 3 giorni? Perché sì, da 3 giorni. Tre giorni, perché siete arrivati quando noi volevamo venirvi a trovare 3 giorni fa, ma siamo stati fermati dalla neve. Una tempesta perfetta e la multipla di Giovanni Tron non poteva avere speranza di raggiungervi. Diciamo che anche non siete molto abituati. No, beh, io comunque sono umbro, quindi comunque da noi non è che non nevichi, insomma, ma... Era la macchina. Però di solito l'altezza. Le catene le tengo. Certo. Vabbè, comunque... Ecco, no, piuttosto se vi va di raccontarci qualcosa riguardo questo, cioè anche proprio al di là dello specifico del lavoro, ma anche voi proprio... Con la mente, diciamo. Io mi sto trovando molto bene, sono delle persone molto accoglienti, come dire, allo stesso tempo non trovo neanche questa enorme differenza, ormai voglio dire, visitare questi paesi un po' sperduti non crea più lo stesso shock che forse poteva creare qualche anno fa, o che forse crea ancora in qualche zona, almeno che io conosco un po' di più, come per esempio la Sardegna. Ci sono, diciamo, entrando in un bar ci si sente abbastanza a casa, nel senso vedo che le abitudini non sono poi così diverse, si guarda la TV a casa, poi ovviamente c'è da dire che è una conoscenza molto superficiale, che se vogliamo è anche il limite un po' di queste esperienze, che secondo me va sempre tenuto molto da conto, perché in qualche giorno non è così semplice, è molto semplice semplificare e avere una percezione superficiale di ciò che ti sta attorno, però ecco, a livello umano... Benissimo. No, sono incredibili, cioè si fanno in mille, cioè qualunque cosa, continuano a dire avete bisogno, non avete bisogno, c'è abbastanza da mangiare, non c'è, cosa ti serve, cioè no, in questo senso sono incredibili, a parte appunto l'arrivo che è stato incredibile, cioè perché noi abbiamo avuto un viaggio, partiti da Roma il 29 mattina alle 7, siamo arrivati qui alle 6 di sera. Il treno si è rotto, vabbè, insomma di tutto, ma problemi con l'affitto del noleggio dell'auto, ma non importa, eravamo devastati, siamo arrivati, ho detto no, giriamo una curva e vediamo questa roba pazzesca, cioè con una, cioè Pietrapertosa tutta illuminata che sembra un presepe, con una nuvoletta sopra il castello che è illuminato d'azzurro, abbiamo detto ma è il paese delle fiabe, cioè quindi veramente lì ci si è aperto il cuore, no? E poi sì, loro sono strepitosi, cioè no? Secondo me, cioè, proprio bello. Anche noi l'altro giorno, reduci dalla tempesta di neve, distrutti dal viaggio a Campomaggiore, abbiamo avuto un'accoglienza da principi, così è stata offerta a cena con 3 bottiglie di vino, grappa, insomma davvero un banchetto. Non so, Giovanni, i tuoi profondi occhi azzurri stanno meditando qualcos'altro, oppure vogliamo ringraziare i nostri artisti e lasciarli andare alle loro stanze? Ma sarei tentato di Vai, vai. fare altre domande. Una delle domande che vorrei fare, che è la domanda che stamattina mi è un po' sorta, molto legata alla figura e al ruolo e alla funzione che l'artista oggi può assumere in festival, e comunque si domandano in che rapporto può entrare l'artista in una comunità, come per esempio una comunità lucana, dove appunto l'isolamento è il paradigma della giornata, anche se, come dici tu, Stefano, ognuno comunque ha una casa con un televisore e sembra che ognuno viva la vita dalla Lucania fino al Friuli. Però in questi contesti mi chiedo in che modo dei lavori particolari, artistici, artista può non aggiungere, ma nemmeno ribaltare, ma come può destabilizzare in senso positivo una comunità come quella di Petra Pertusa. Quindi oggi l'artista che ruolo dovrebbe assumere, oppure se è una domanda da porsi, e quindi vi chiedo voi da artisti in che modo entrate in contatto, in relazione con una comunità che comunque deve far parte anche del processo creativo del vostro progetto. Faccio sempre domande Ma sì, molto. molto semplici, molto così, un attimo. Ma non lo so, io non sono tanto per questa, cioè non ho tanto questa idea di una regola. Allora, intanto faccio sempre fatica a usare il termine artista perché mi sembra molto Come tutti gli novecentesco, artisti. no, molto novecentesco e secondo me ha perso tutto il valore che aveva fino a un po' a metà del Novecento, forse o qualcosa anche più. Cioè, Secondo me nel non l'ha mai senso, avuto, però. forse non l'ha mai. Vabbè, io c'avevo un po' questa idea, forse perché, boh, non lo so. Comunque, quindi siamo appunto persone come tutti gli altri, no? Che usiamo degli strumenti diversi, che ragioniamo su alcune questioni e che boh, forse ci ragionano anche altre persone che non fanno appunto l'artista, dico fanno gli artisti, non sono. Quindi forse io penso che quello che si dovrebbe fare, cioè l'atteggiamento appunto di chi arriva in questi luoghi, dovrebbe non essere appunto né di invasione, né colonialista, né di poco rispetto e di pretesa di perché io sono l'artista e quindi io voglio quella roba lì, ne ho bisogno, cioè capire come. Come dire, trovare il punto di incontro, di equilibrio, in modo che uno non sia, cioè io vengo qua e poi dico no, vabbè, non posso far niente, ecco, e cercare di entrare, ma entrare dentro una comunità è impossibile in 4 giorni, forse neanche in 20 anni, cioè io mi sono trasferita 20 anni fa in Emilia-Romagna, in un posto in Romagna, in un paese di 700 anime in una frazione di 59 persone e non sono inserita per niente, no? Quindi perché? Perché bisogna capire che qual è, cioè che cosa mi dai tu, che cosa ti voglio dare, che cosa mi interessa, no? Cioè, quindi è veramente molto complicato. Quindi credo che non ci sia una formula. Certo è più interessante per me come persona lavorare in un festival di questo tipo in cui mi scombussola tutto, tutte le mie certezze anche proprio di appunto teatro, mica teatro, no? Perché dove lo fai? Nella sala consiliare in uno spazietto molto ridotto, quindi che cosa, no? Quando tu avevi pensato a un'altra roba, perché un conto vieni qui, hai 3 mesi e prepari una roba apposta, ma invece l'adattare una cosa, modificarla, no? Quindi, boh, credo che forse sì, in certi momenti uno dovrebbe occuparsi di meno anche della confezione del lavoro e anche delle relazioni che si instaurano, no? Almeno in quel momento, per quanto poi è chiaro che ci abbiamo sempre queste ansie da prestazione, quindi uno vuole, cioè lo so, perché insomma io faccio questo lavoro da ormai 40 anni, quindi quasi 40 anni, cioè ce l'ho questa roba qua, è innegabile, no? Cioè non è che mi butto in scena tanto per fare, a meno che non decida che è un'improvvisazione, allora lo dichiaro, però. Però ecco, io non so se l'artista deve avere un ruolo, deve, credo che sia anche molto personale e anche, cioè, di scelta appunto personale, di carattere, di modalità. Sai Paolo, in questi giorni quasi tutti, insomma, le persone che incontriamo in questi paesi ci dicono che fondamentalmente, ma condividiamo anche con te questa questione, che un po' il problema è che la gente se ne va, le comunità si spopolano, soprattutto i giovani tendono ad andare via, non tornare, insomma, perché opportunità lavorative, studi, eccetera, ovviamente. Te praticamente invece hai fatto il percorso contrario, cioè sei una che è tornata, che è andata a vivere in un paesino grande come uno di questi, anzi addirittura più piccolo, ma allora non lo so quanto anche ti vada rivelato del motivo di questa scelta. Vabbè, come, dai, uno come si trasferisce in un posto così, sempre per, cioè i motivi possono essere o per lavoro o per amore, no? Ecco, per me è stata la seconda. Dopo 2 anni tentativi di stare a Torino, insomma, ci siamo poi spostati giù, ed è chiaro che non è stato facile. Ammetto che i primi 2 anni avrei sbattuto la testa contro il muro, no? Perché, cioè, te arrivi da Torino, che non è che dici Roma, comunque è una città, abitavo in centro, scendevo, avevo il cinema lì, a piedi vai a teatro, fai le tue cose, cioè lì il deserto, ed è pazzesco, perché uno pensa sempre a questi paesi, la Lucania, per carità, ma anche in Romagna, cioè nell'Emilia Romagna, tanto ricca, tanto, la provincia è la provincia, cioè l'Italia interna è tutta uguale, abbandonata a se stessa, senza servizi, perché se io non avessi la macchina non potrei muovermi, ci metterei, allora in macchina ci metto 30 minuti ad arrivare a Rimini, senza macchina penso 3-4 ore, capito? Cioè una roba infinita, devi cambiare 2 pullman, devi fare 2 chilometri a piedi, che qui hanno più servizi rispetto a noi, perché da qui a Potenza ci arrivano col pullman, no? Quindi, per dire, ed è tutto, io capisco benissimo la questione, no? Dello spopolamento, dei ragazzi che vanno via, ma, cioè io non sarei andata a vivere lì a 20 anni, cosa ci vai a fare a 20 anni in un posto così? È la morte, cioè non hai stimoli, no? E tu dici sì, internet, ma cosa vuol dire che sto davanti al computer tutto il giorno? Te devi avere stimoli vitali, no? Vita, non schermo. Vabbè, ma la vita non c'è più da nessuna parte. È una domanda che aleggia, non è che incita questa, cioè del poi no, cosa ci vado a fare sì. Da un'altra parte, no? Ma e chiaramente poi ognuno un po', appunto, anche come diceva Paola, cioè, diciamo che alla fine sono sempre le passioni che ci muovono anche a determinare certe scelte, però anche questa è una domanda che aleggia un po' il ma cosa ci vado a fare di questi tempi, ecco. Secondo me la vita, se c'è ancora, bisogna cambiare coordinata, non è più spaziale ma è temporale, cioè bisogna spostarsi temporalmente, spazialmente ormai non c'è più speranza. Quindi ovviamente in uno spazio, cioè in un tempo immaginario, cioè completamente fuori dalla realtà. Cioè adesso vabbè, sto andando pesante. No. Sì, però voglio dire. Più mi è simpatico. No, però anche questa cosa, no, dello spopolamento dei paesi è vero. Bisogna però fare anche attenzione al ripopolamento. Io prendo l'esempio vicino a casa nostra, no? Ci sono un sacco di case abbandonate o così, e stanno tornando delle persone magari un po' âgée che stanno andando in pensione, che arrivano da Milano e che fanno venire i corrieri di Amazon, GLS, quello, tutti i giorni, almeno uno o due volte al giorno. Allora, se tu ti devi trasferire in campagna, in un posto insomma che c'ha i boschi intorno e tutte, e far venire il furgone di Amazon perché tu non sei abituato a non avere i negozi sotto casa, io ti dico, torna a Milano. Allora, come li ripopoliamo se vogliamo ripopolare questi paesi? Lo spopolamento, anche se, certo, è un problema, anche se ma come? Domanda, in fondo non è neanche, noi non abbiamo una risposta ovviamente, ma però no, non si può neanche necessariamente dare per scontato che le cose per forza non debbano neanche finire. Esatto, non è meglio un paese che mi viene da dire che crolla perché non è più il tempo di quel paese? Ma io forse sì, cioè in fondo cioè, la natura si rimangia tutto, no? Tu abbandoni una casa dopo un po' ricoperta di edera, di albe, ma meno male che ha ancora questa forza e che noi non possiamo controllare, che non possiamo arrivare fino in fondo al controllo di tutto, se no sarebbe la fine, no? Anche perché una delle risposte più comuni che venivano date alla domanda quale sarebbe la soluzione a questo spopolamento è il lavoro, ma poi c'è subito l'associazione il lavoro è precario ovunque. Quindi se dobbiamo ancora continuare a pensare a delle soluzioni a questa precarietà con il lavoro, forse dobbiamo cambiare il paradigma. E forse la soluzione per tornare in questi posti è che venga abolito il lavoro, così uno può godersi la vita in un posto bello. Esatto, sono d'accordo, d'accordissimo. E forse con questo meraviglioso auspicio io ringrazierei Stefano e Paola per questa bellissima chiacchierata che è partita dal lavoro e è andata a finire sul fatto che forse sarebbe meglio abolirlo, almeno in certe sue forme. E con Paola Bianchi, Stefano Murgia ci rivedremo per la performance che sarà sabato, sì. Sabato alle ore 20. Alle ore 20, e quindi insomma invitiamo chi potrà venire a Pietra Bertosa a vederla in presenza e tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici a ascoltarla invece a in diretta. A vederla con gli orecchie esatto. In diretta, se non potranno essere qui con noi in tutta la loro. Grazie mille.